in primo piano. È venerdì, naturalmente grande risalto all'esodo, o almeno io immagino, sui giornali di oggi. Lo scoprirò con Mauro Meazza, caporedattore centrale del Sole 24 Ore. Bentornato, Mauro. Buongiorno Irene, buongiorno a tutti. Sì, l'esodo ovviamente l'attesa in qualche modo per la giornata di domani, che sembra un po' segnare l'inizio ufficiale delle vacanze estive del 2009, occupa effettivamente molto spazio sui giornali. Non è, devo dire, l'unico debutto che da domani segnerà in modo importante la nostra vita. Ad esempio, come ci sono altre novità. Esattamente, lo ricordiamo sul Sole 24 Ore di oggi: tra stretta e sanatoria, l'agosto più lungo dei clandestini è il titolo dell'articolo di Angela Manganaro. Perché? Perché da domani entrano in vigore le nuove norme più severe sulla permanenza dei clandestini. C'è il reato di clandestinità, ci sarà il reato di clandestinità. Nello stesso tempo, da settembre sarà possibile ricorrere alla sanatoria, quindi si crea questo momento liminale, questo momento di passaggio raccontato appunto sul Sole 24 Ore, ripreso anche da altri giornali. È arrivato l'8 agosto, la famosa data di cui si parlava dal momento della discussione di queste norme. Grazie Mauro, ti seguiremo volentieri in questa lettura su tutti i quotidiani. Allora, ritorniamo proprio sul Sole 24 Ore, grazie Irene, e dal titolo più importante, che è dedicato naturalmente alle dichiarazioni di Trichet sulla cosiddetta tassa sull'oro. Trichet insiste: non va tassato l'oro di Banca Italia. Si spiega nel titolo l'importanza di questa ulteriore precisazione del governatore della Banca Centrale Europea. Servono altri tagli per finanziare il decreto legge anticrisi. Serviranno altri tagli quindi per finanziare il decreto legge anticrisi. E poi ricorda sempre il titolo principale del Sole 24 Ore di oggi: a giugno brusco calo dell'1,2% della produzione. Tra l'altro sul Sole 24 Ore di oggi comincia una serie di guide che illustrano proprio il decreto legge anticrisi, da pochi giorni diventato definitivamente legge. Oggi la prima guida che viene presentata sul Sole 24 Ore è dedicata allo scudo fiscale, cioè alle misure per il rimpatrio dei capitali dall'estero. Sempre sul Sole 24 Ore della prima pagina, i petrolieri, niente ribassi ai prezzi della benzina. E poi un'iniziativa di servizio, la mappa dei cantieri che sono aperti, che restano aperti sulle autostrade delle vacanze. Quindi torniamo al tema dell'esodo, della giornata di domani definita appunto da bollino nero. Nella parte alta della pagina Sole 24 Ore di oggi, il consiglio Rai che vara le nomine tra le polemiche, e poi una grande foto di soldati americani, di Marines, che guardano un computer. Perché questa foto? Per unire due aspetti, due notizie di ieri. Il primo, presente anche su molti altri giornali, cioè il blocco che ha segnato Twitter, e dall'altra parte invece il divieto imposto dai vertici militari USA di utilizzare i social network da parte dei Marines. I social network sono in qualche modo considerati pericolosi per la sicurezza, e quindi ai soldati americani impegnati su fronti particolarmente caldi viene vietato l'utilizzo dei social network. Una buona notizia di congiuntura: in luglio è tornata positiva la raccolta dei fondi comuni, è la seconda volta che questo accade dall'inizio del 2009, lo ricorda la prima pagina del Sole 24 Ore e naturalmente un ampio servizio all'interno. Passiamo agli altri giornali, vediamo quali sono le proposte in prima pagina. Da Repubblica, petrolieri no al governo, la benzina non diminuisce, e sull'oro Trichet boccia Tremonti, la notizia appunto della bocciatura della cosiddetta tassa sull'oro, tassa che peraltro, va detto, era già di fatto stata congelata, fermata proprio nella versione finale del decreto legge anticrisi, quindi la bocciatura era già stata comunicata, e quello di ieri è un po' un sigillo definitivo, ufficiale, pubblico di questa posizione della Banca Centrale Europea. Tra le misure allo studio per la benzina, avverte Repubblica anche il ritorno ai prezzi amministrati e poi la produzione industriale, ovviamente in evidenza sul titolo principale di Repubblica, produzione industriale nuovo crollo a giugno, meno 21,9%. Sempre su Repubblica la vicenda di Twitter, assalto degli hacker a Twitter, il social network dice siamo sotto tiro. E poi resta in prima pagina la polemica sulle bandiere, l'abbiamo vista ieri con questa proposta di legge per dare pari dignità costituzionale al tricolore e ai vessilli regionali. Bossi insiste, bandiera padana è il titolo con cui Repubblica richiama le dichiarazioni rilasciate ieri appunto dal leader della Lega, che ha detto lasciamo stare la bandiera italiana, io penso solo alla bandiera padana. E poi sempre dalla prima pagina di Repubblica, il sogno atomico di Bin Laden, l'arsenale nucleare del Pakistan nel mirino dei terroristi di Al-Qaeda. Questo il servizio di Guido Rampoldi sulla rischi atomici, sui rischi dell'atomica connessi con l'atomica del Pakistan e il terrorismo islamico. Il Messaggero, anche per il Messaggero, grande risalto al vertice fallito sul prezzo della benzina, braccio di ferro sul prezzo, nessuna intesa al vertice con le compagnie petrolifere, il governo studia sanzioni. E poi produzione industriale, nuovo calo a giugno in tutti i settori, anche per il Messaggero nella parte alta di pagina, Trichet no alla tassa sull'oro, ripresa solo da metà 2010. Il Messaggero torna su questo 8 agosto, questa giornata di domani, che segnerà appunto tutta una serie di debutti di nuove regole. Tra l'altro debutteranno le regole sulle cosiddette ronde, ma i giornali tornano a parlare di ronde in più occasioni, lo vedremo. E, tra l'altro, cambiano anche le norme sul codice della strada, ne abbiamo un po' parlato anche nei giorni precedenti. Super multe per i pirati della notte, avverte il Messaggero. Sicurezza stradale da domani in vigore le nuove sanzioni. Le super multe riguardano anche chi getta i rifiuti dall'auto. Attacco degli hacker Twitter, KO anche per il Messaggero. E poi il Messaggero dà una finestra, un'evidenza in prima pagina alla vicenda del Super Enalotto, il jackpot si nasconde ancora, vola a 123 milioni. Il Corriere della Sera, grande esodo, nuove regole. Il Corriere della Sera quindi riprende questo tema del cambiamento di regole da domani 8 agosto. Domani cambia il codice, più severità per droga, alcol e infrazioni notturne. E poi no dei petrolieri all'accordo, la benzina resta cara. Produzione industriale in calo anche a giugno, avverte il Corriere della Sera nella sua parte alta, ma il Corriere ha sul tema delle ronde e sul tema della sicurezza, quindi dell'immigrazione dei clandestini, una intervista con il ministro dell'interno Roberto Maroni, un'intervista che magari potremo vedere rapidamente più avanti. Nella parte bassa della prima pagina del Corriere, Andrea Lafranchi che avverte: non abbiamo ancora una canzone dell'estate. Non lo avverte, appunto, come sapete, tutte le estati qualche canzone impone un tormentone. Così, appunto, viene presentato il contributo di Lafranchi. Gara senza vincitori, dice Andrea Lafranchi sul Corriere della Sera di oggi. La Stampa dà prevalenza alla benzina pure. Quindi niente sconti sulla benzina, no dei petrolieri alla richiesta del governo, Berlusconi con Putin ad Ankara per firmare l'intesa sul gasdotto. E poi Schumacher, che un'intervista a Schumacher richiamata da una grande foto di un primo piano del pilota tedesco in prima pagina sulla Stampa. Schumi, torno per lealtà, non per adrenalina. Questo dalla prima pagina della Stampa. Anche il Giorno avvisa con un grande titolo, con il suo titolo più importante: non ci saranno sconti sulla benzina, niente sconti sulla benzina, i petrolieri fanno muro, il governo pronto a bloccare i prezzi. E Twitter ugualmente trova spazio nella prima pagina del Giorno, arrembaggio dei pirati di internet, Twitter va fuori uso per ore. Da Il Giornale, dalla prima pagina del Giornale, una lettura, diciamo, più orientata sui cambiamenti di domani 8 agosto, quindi un po' simile alle nuove regole richiamate da altri giornali, le nuove regole su clandestini, ronde e codice della strada in vigore da domani. Il giornale sintetizza in questo modo: domani cambia un po' l'Italia, così. Scattano le nuove regole su sicurezza e immigrazione, la clandestinità diventa reato, arrivano le ronde, pene più severe per gli automobilisti indisciplinati, badanti messe in regola, e poi annuncia appunto il giornale punto per punto tutte le novità. Vi voglio segnalare una notizia curiosa che viene richiamata in prima pagina dal giornale: Gran Bretagna, scomodi e sessisti. Il sindacato vieta i tacchi alti in ufficio. Cos'è successo? Che la più grande confederazione sindacale inglese propone il divieto dei tacchi alti negli uffici inglesi. Sono scomodi e sessisti. La più grande confederazione sindacale inglese, segnala appunto il giornale di oggi, che propone di mettere al bando i tacchi alti sul posto di lavoro. Vediamo se riusciamo a ritornarci rapidamente nella seconda parte, dopo le informazioni sul traffico. Vediamo un attimo ancora Libero. Libero sceglie un'apertura, un titolo di rilievo un po' differente da quello di altri giornali: giù Legnate a Silvio, opposizione mediatica. Riunisce così Libero una serie di notizie che sono uscite in questi giorni, che vengono poi richiamate appunto dalle due righe sotto il titolo. Repubblica riprende la stampa francese, dove si riciclano le intercettazioni hard del Premier. Murdoch perde abbonati. Murdoch, possessore di Sky, perde abbonati, chiede aiuto politico alla sinistra, non fateci togliere la RAI. E poi in evidenza su Libero in prima pagina: nelle scuole arrivano i presidi dal sud, infornata di nomine su 647, quasi tutti sono meridionali, quindi viene rilanciato questo tema della provenienza geografica a scuola. C'è una iniziativa particolare, interessante, della Gazzetta dello Sport quest'oggi: Outlet Calcio, inchiesta. Dalla massima serie alla Lega Pro, un'ondata si abbatte sul mercato. Di cosa si tratta? Ci sono, la Gazzetta dello Sport li ha contati, 282 esuberi nelle squadre delle massime serie, tra cui appunto Mancini, Oddo, Poulsen tra quelli di Serie A, e 171 disoccupati che si allenano in proprio, avverte la Gazzetta, con lo psicologo. Nelle pagine interne l'ondata dei precari, con l'elenco completo: A, B e Lega Pro ne hanno 282, via al mercato degli esuberi, da Poulsen a Simplicio, da Oddo a Bresciano, molto lunga la lista di chi cerca una squadra, con l'elenco completo squadra per squadra di tutti questi giocatori precari molto particolari, ma comunque si tratta di persone che in questo momento non hanno un contratto, certo con altri termini, con altri ingaggi rispetto a chi si può trovare in situazioni analoghe. Dal secolo XIX una vicenda locale ma di interesse, una grande foto dalla prima pagina del giornale di Genova segnala il prossimo meeting che si terrà proprio nel capoluogo ligure dei testimoni di Geova. Noi seccatori al citofono vi faremo scoprire Geova. Questo è l'annuncio con questa grande foto per il meeting dei testimoni di Geova, che sono giunti da tutto il nord-ovest. Hanno per il momento già ripulito, avverte il giornale, lo stadio dalle scritte volgari dai chewing gum, quindi una vicenda locale che viene segnalata in evidenza dal secolo XIX. Torniamo sui temi che abbiamo visto con maggiore enfasi sulle prime pagine dei giornali. Vi parlavo di questa intervista a Maroni presentata dal Corriere della Sera. Si tratta di un Maroni che risponde a diverse domande poste da Dino Martirano. La prima domanda che gli viene posta è: il ministro non è preoccupato per gli effetti che avrà l'introduzione del reato di clandestinità, novità dirompente del decreto sicurezza? Non sono d'accordo, è la risposta di Maroni. La novità più importante del DDL sicurezza consiste nell'obbligo di denuncia da parte delle imprese per i tentativi di estorsione subiti. La sanzione è la perdita degli appalti per 3 anni. Una rivoluzione, dice il ministro Maroni, nella lotta alla mafia, una rivoluzione voluta anche dalle associazioni anti-racket e da Confindustria Sicilia. E poi ancora nella intervista di Maroni, che si trova nelle pagine iniziali del Corriere della Sera di quest'oggi, che succede a una colf irregolare, chiede Martirano, se viene fermata tra l'8 agosto e il 1 settembre? Niente, abbiamo dato istruzioni precise per svolgere gli accertamenti e non denunciare chi effettivamente può dimostrare di fare la colf. Avrei preferito partire contestualmente, ma ci sono problemi organizzativi. Fermiamoci un istante, perché proprio questo aspetto del delicato passaggio dalle regole del decreto sicurezza, del pacchetto sicurezza alla sanatoria, è quello che viene segnalato sul Sole 24 Ore. Come riferisce appunto Angela Manganaro già nella prima pagina, il Ministero dell'Interno stima che in un mese per la sanatoria arriveranno 500.000 richieste circa, ci sono però 3 settimane con il fiato sospeso. Il Viminale sta preparando appunto delle istruzioni, le istruzioni a cui facenno il ministro Maroni nella sua intervista al Corriere della Sera, e nelle pagine interne spiega il Sole 24 Ore: questo reato di clandestinità avrà un debutto morbido, quindi ci sarà una sorta di approccio cauto alle novità normative per appunto scongiurare i possibili conflitti tra una disposizione, tra una novità di legge e l'altra. Torniamo allora sul Corriere della Sera, il tema ovviamente delle ronde. Perché tante critiche sulle ronde? Risponde Maroni: ci sono molti equivoci, abbiamo monitorato un fenomeno diffuso e per questo abbiamo deciso di regolarizzarlo, dando ai sindaci la possibilità, se lo vogliono, di organizzare queste attività. Respingo quindi al mittente le critiche, prosegue il ministro, in particolare quelli di alcuni sindacalisti della polizia che mi hanno ferito. E poi sulla parte del lavoro, le imprese, è un'altra delle domande che gli vengono rivolte, reclamano il decreto flussi per il 2009. Si farà? Dice Maroni: abbiamo deciso di non farlo. E poi la spiegazione decisamente brutale di perché gli imprenditori reclamano i flussi mentre licenziano e mettono in cassa integrazione. Quanti sono gli extracomunitari, domanda polemicamente Maroni, che se ne stanno andando spontaneamente perché perdono il posto? Questo appunto, queste alcune delle risposte del ministro dell'Interno all'intervista del Corriere della Sera. Ancora sull'8 agosto da Il Giornale, due pagine, la pagina 2 e la pagina 3 del Giornale di oggi: immigrazione e sicurezza scatta l'ora X, ecco come ci cambia la vita da domani. E poi i cambiamenti più importanti riassunti in 4 schede. Alla guida, infrazione di notte, la pena è più severa. Nei quartieri arrivano le ronde, ma niente armi o divise. In casa, badanti in regola con 500 euro. E poi per gli extracomunitari, appunto, questo reato di clandestinità. Ora la clandestinità diventa un reato. Restiamo un istante sulle ronde. Le caratteristiche delle ronde, che sono state descritte un po' qua e là nei vari giornali già dai giorni scorsi, vengono oggi riassunte dalla Padania. La Padania dice, appunto, riassume i requisiti individuali: bisogna avere 18 anni, però il caposquadra deve averne almeno 25, ovviamente la fedina penale, deve essere pulita, ci vuole un certificato di idoneità, e le squadre di questi volontari della sicurezza dovranno essere di massimo 3 componenti e hanno il divieto assoluto di portare armi. Inoltre devono essere identificabili appunto da una pettorina con walkie-talkie collegati ai presidi locali delle forze dell'ordine. Hanno solo un compito di segnalazione. Su questo punto, come ricorderete, si era dibattuto a lungo sulla possibilità concreta di intervento da parte di queste attività che, come abbiamo capito, dovranno essere poi autorizzate dai sindaci per essere realmente operative, attive sul territorio. Torniamo sul Giornale per questa notizia che, chiedo scusa, vi avevo segnalato nella prima parte. questo divieto curioso del sindacato inglese. Scomodi e sessisti, il sindacato vieta i tacchi alti in ufficio. Erika Orsini ci riferisce appunto da Londra che il Trade Union Congress, l'organismo che rappresenta le maggiori organizzazioni sindacali del paese, nel prossimo congresso nazionale metterà ai voti una mozione che propone di mettere al bando dagli uffici le calzature a tacco alto, descritte come portatrici di gravi danni alla salute femminile e vengono anche definite inoltre umilianti per le donne. Naturalmente io su questo non mi esprimo, ma lascio invece la parola a una donna, cioè a Irene Zerbini.